17:31 minuti primi, andiamo in onda dalle frequenze di Radio Default con Radio Cufia, la trasmissione purtroppo di soli aggiornamenti sulla Palestina occupata, arrivata ormai a oltre 40 giorni di attacco. Ricordiamo velocemente i contatti della radio, www.radiodefault.it, per poter trovare il nostro palinsesto e le repliche delle nostre trasmissioni, oltre che le nostre iniziative. Nostra pagina Facebook Radio Default, in cui potete essere aggiornati in tempo reale su ciò che avviene, su ciò che questa radio trasmette, e poi potete sempre venirci a trovare in quel di Genzano di Roma, via Guido Baldi 56, in cui potete incontrare la nostra redazione, interagire in diretta con le trasmissioni e magari portarci un caffè, anche se qualcuno ci ha già portato una fantastica poltrona nuova, molto più radiofonica, che non scricchiola quando uno si muove. E quindi siamo arrivati al 40° giorno di attacco consecutivo contro la striscia di Gaza, e oggi è anche il 5° giorno di tregua. Ricordiamo velocemente il bilancio di questo mese di bombardamenti sulla striscia di Gaza. Siamo secondo il Ministero della Salute palestinese, secondo quanto riportato dal quotidiano libanese Al-Akhbar, abbiamo superato la soglia dei 2.000 martiri, esattamente 2.016, di cui più di 540 hanno meno di 18 anni. Sono state completamente massacrate più di 70 famiglie, e ricordiamo che di questi 2016 martiri più dell'80% sono civili, e sono arrivati a 10.193 i feriti. Bilancio che ha avuto un'impennata, si era arrivati a circa 1.900 e si è arrivati appunto velocemente a 2.016 in questi giorni di tregua, in quanto sono morti coloro che sono stati feriti gravemente nel mese passato, o appunto deceduti per le ferite o per mancanza di poter accedere alle cure mediche, visto che oggetto di bombardamento sono state anche le strutture sanitarie della striscia. In più il conto dei morti è aumentato, visto che in questi 5 giorni di tregua, anzi 8 giorni di tregua, si stanno portando avanti gli scavi tra le macerie delle oltre 40.000 case distrutte, e quindi stanno venendo alla luce i corpi decomposti dei martiri che non si è potuto tirare fuori nei giorni passati. Ricordiamo gravissimo colpo inferto al settore educativo della striscia di Gaza. Tutte le principali università sono state bombardate, e inoltre sono state colpite 141 scuole, di cui 22 sono state distrutte e 119 parzialmente distrutte. In tutto questo e di questo parliamo ovviamente delle scuole del Ministero dell'Istruzione palestinese. Sono state colpite anche 136 scuole dell'UNRWA, cioè l'agenzia dell'ONU che opera per i rifugiati palestinesi, per un danno che il Ministero dell'Educazione ha stimato in circa 10,5 milioni di dollari. Ricordiamo, su un PIL di circa 1,8 miliardi che la striscia produce ogni anno, e che produrrà di meno sicuramente a partire da quest'anno. Inoltre l'attacco indiscriminato contro i civili e contro i quartieri civili ha portato a una situazione in cui attualmente 485.000 persone, cioè circa il 25% della popolazione della striscia di Gaza, sono attualmente senza casa, stipati nei rifugi, che come abbiamo visto vengono bombardati senza remora. E ricordiamo anche che l'80% della popolazione della striscia di Gaza è composto da profughi, cioè da coloro che nel 1948 sono stati cacciati dalle loro terre, da quella che oggi viene chiamata Israele, e quindi si ritrovano a essere profughi per la seconda volta in questi 66 anni di occupazione. E quindi però in questi giorni, a quanto pare, la situazione è un po' più calma. È stata fatta una tregua di 3 giorni la settimana scorsa, che poi è stata confermata per altri 5 giorni, anche se la tregua ha visto delle rotture da parte dei sionisti che proprio ieri hanno sparato vicino al confine di Kerem Shalom, cioè nella parte centrale della striscia. Hanno colpito un uomo, Karim Abu Salem, che è stato ferito al piede. Si continua a sparare su le barche dei pescatori che stanno provando in questi giorni di calma a pescare e a portare un po' di soldi a casa, o almeno quelle barche che non sono state distrutte con il bombardamento alla cooperativa dello scorso giovedì. Inoltre continua la repressione sia nella West Bank, sia nella Gerusalemme occupata, sia nei territori del 48, cioè la cosiddetta Israele, dove sono forti anche là le mobilitazioni, e dei palestinesi con cittadinanza israeliana, e le manifestazioni un po' meno forti della sinistra israeliana. E quindi si è arrivati appunto a questi 5 giorni di tregua, in cui stanno andando avanti le trattative indirette tra l'entità sionista e le ali della resistenza palestinese, trattative mediate dagli ufficiali dall'intelligence egiziana. Infatti, queste trattative si stanno svolgendo proprio ora al Cairo, e trattative che vedono delle chiare richieste dalla parte della resistenza, richieste su cui il portavoce delle brigate Zedin al-Qassam, l'ala militare di Hamas, Abu Ubaida, ha detto che queste richieste non hanno nemmeno bisogno di trattativa, perché sono dei diritti fondamentali garantiti dal diritto umanitario. E queste richieste sono molto, appunto, basilari. Si chiede sostanzialmente il ritiro delle truppe di terra sioniste, ritiro che è avvenuto, e ovviamente la sovranità su tutto il territorio della striscia di Gaza, che ricordiamo vede una buffer zone imposta unilateralmente da Israele sulle zone di confine, giustificandola come per motivi di sicurezza, di fatto sottraendo circa 1 chilometro di terra fertile, la più fertile della striscia, ai contadini che l'hanno i loro campi. Si chiede poi la fine dell'embargo criminale che va avanti dal 2007, e quindi la riapertura dei valichi sia con l'entità sionista sia con l'Egitto, e conseguentemente la costruzione di un porto e di un aeroporto, o meglio la ricostruzione dell'aeroporto che già c'è, lo Yasser Arafat International Airport, per appunto per rompere questo assedio che ricordiamo essere il più lungo dell'età contemporanea. Inoltre si chiede, gli ultimi 2 punti sono l'estensione a 10 miglia nautiche dell'area di pesca per i pescatori e la liberazione dei prigionieri liberati da Israele in cambio del soldato occupante Gilad Shalit, che sono stati riarrestati. Ricordiamo che, tra l'altro, molte di queste richieste erano state già accettate dall'entità sionista nel 2012, come ad esempio l'estensione dell'area di pesca per i pescatori, che attualmente pescano all'interno delle 3 miglia nautiche, praticamente gli unici pescatori che pescano dove l'acqua arriva al ginocchio, e come anche la liberazione dei detenuti, visto che si erano già impegnati a liberarli, non si è capito perché li abbiano riarrestati. E a tutto questo si sta opponendo il governo Netanyahu, che ha dichiarato che il mandato dei negoziatori al Cairo è quello comunque di tenere bene a mente e di rispondere alle necessità della sicurezza del, dell'occupante sionista, e che quindi richieste come ad esempio l'apertura di un porto, di un aeroporto, vanno contro la sicurezza del cosiddetto Stato ebraico. Dicendo, guardate, con i tunnel, con tutto l'assedio, Hamas e la resistenza ha fatto entrare i razzi M75, i Fajr, i Qassam e via dicendo, immaginate con un porto e un aeroporto, potrebbe essere un buon modo per avere degli scud puntati su Tel Aviv, magari diremmo noi. E in questo caso Netanyahu tira fuori gli scud, cioè il la grande paura che ebbero gli israeliani durante la prima guerra del Golfo, quando Saddam Hussein, in risposta all'aggressione statunitense, sparò, lanciò i razzi, i missili Scud su Tel Aviv. Inoltre, il capo il ministro dell'intelligence, Yuval Steinitz, ha dichiarato che la delegazione sionista non accetterà nessun compromesso, nessun accordo che non preveda la smilitarizzazione della striscia di Gaza. Cioè, questo significa ovviamente le ali della resistenza si oppongono a questo tipo di accordo, e anche perché si è visto come la presenza delle brigate armate della resistenza palestinese in quest'ultimo conflitto la presenza di queste brigate armate è servita a ricacciare indietro l'occupante dalla sua offensiva di terra, e oltretutto con i lanci dei razzi sono serviti sia a annullare una serie di eventi della vita quotidiana israeliana, che così ha cominciato a sentire sulla propria pelle cosa significhi bombardare la Palestina, sia appunto ha portato anche a danni economici, in quanto sono state evacuate per motivi di sicurezza le città meridionali di Israele al confine con la striscia. Questo significa anche blocco delle attività economiche, e inoltre, oltretutto, per qualche giorno la resistenza ha costretto alla chiusura di fatto l'aeroporto di Tel Aviv. E quindi insomma, la presenza di una risposta armata all'aggressione sionista ha portato a dei buoni risultati, uno dei quali è anche quello di costringere gli occupanti a sedersi al tavolo delle trattative. E quindi i rappresentanti della resistenza stanno dichiarando che Israele sta portando, con queste sue richieste assurde, sta portando a una situazione di stallo questi colloqui indiretti, e che purtroppo il negoziato è arrivato è ritornato alla base 1, cioè è ritornato al punto 0, cioè bisogna ricominciare da capo a trattare. In tutto questo le ali della resistenza dichiarano: ok, noi continuiamo a trattare, ma ricordiamoci che il cessate il fuoco scadrà a mezzanotte di lunedì, e dalla mezzanotte di lunedì la resistenza riprenderà le proprie operazioni contro l'occupante. Vediamo se così, dopo un nuovo giro di operazioni militari contro l'occupazione, di resistenza contro l'occupazione, se l'entità sionista sarà più malleabile. E quindi noi ci prendiamo uno stacchetto musicale, riposiamo un attimo il gargarozzo e ci rivediamo fra qualche minuto. Ci risentiamo. Thank you. E ritorniamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento e dalla Palestina sotto attacco. E ricordavamo appunto, abbiamo fatto una breve parentesi su quanto è costato a livello di vite umane questa offensiva e come stanno procedendo le trattative o come non stanno procedendo le trattative diplomatiche in corso a quest'ora fino a mezzanotte in quel del Cairo e andiamo invece a parlare un po' dei danni economici che questa offensiva sta portando alla striscia di Gaza, che di fatto sta venendo portata all'anno zero per quanto riguarda l'aspetto economico. Ha dichiarato lunedì il ministro del palestinese dell'economia Muhammad Mustafa che la ricostruzione sarà sull'ordine dei miliardi di dollari. Lui ipotizza all'incirca 6 miliardi di dollari, con, ricordiamo ovviamente, 30.000 abitazioni danneggiate e distrutte, il 25% della popolazione che è profuga all'interno della striscia, ma ha anche appunto danni estremamente gravi a tutta l'infrastruttura economica palestinese. Ricordiamo che la disoccupazione è salita al 41% e più di 180.000 persone sono rimaste disoccupate in seguito agli attacchi alle infrastrutture economiche, alle fabbriche, gli stabilimenti agricoli della striscia, che già erano comunque gravemente minati dall'assedio che va avanti dal 2007. In tutto questo la FAO ha dichiarato che il settore agricolo a seguito di questa offensiva soffrirà fortemente per un lungo periodo, appunto un'incapacità produttiva. Ricordiamo che sono stati distrutti circa 17.000 ettari di coltivazione. I danni al settore agricolo sono stimati intorno ai 251 milioni di dollari, danni indiretti, e 150 milioni all'incirca quelli indiretti, ma che però si vedranno prossimamente. Metà del pollame della striscia di Gaza è stato ucciso o distrutto dai bombardamenti o morto in seguito alla mancanza di acqua e via dicendo. E questo ha portato di fatto alla distruzione di una serie di appunto di coltivazioni e di allevamenti che si occupavano di rifornire circa il 70% del mercato locale della striscia. Questo comporta che la maggioranza dei palestinesi attualmente sopravvive grazie all'assistenza alimentare, quella del World Food Program o quella dell'UNRWA, e vanno aggiungersi sulle alle già migliaia di palestinesi che già prima vivevano grazie all'aiuto umanitario. In tutto questo è stato fortemente colpito anche il settore idrico, con circa 34,4 milioni di dollari di danni in questo mese di offensiva. Sono stati distrutti completamente circa 11 pozzi e parzialmente distrutte una quindicina, 17 chilometri di tubature idriche sono andate completamente distrutte, mentre 29 chilometri sono state parzialmente distrutte. Sono stati praticamente danneggiati gravemente o completamente distrutti circa 16 cisterne dell'acqua, oltre che a 10 chilometri di impianti fognari e a 12 stazioni di depurazione e pompaggio. Ciò ha prodotto ovviamente un grave danno ambientale, sia un grave danno sanitario, perché manca l'acqua anche nei rifugi dell'ONU, ma provoca anche un grave danno ambientale, in quanto le acque nere non trattate vengono pompate direttamente in mare, e questo va a gravare già la già complicata situazione del settore ittico, che ricordiamo si trovava a dover subire un blocco navale che impediva di pescare oltre le 3 miglia nautiche. Questo significa che mediamente il pescatore si ritrova a pescare con l'acqua che gli arriva al ginocchio, e si trovano a pescare, oltre a dei pesci estremamente piccoli, anche in acque estremamente inquinate. Circa il 25%, prima dell'offensiva, circa il 25% delle coste Gazawi erano gravemente inquinate, e questo è andato a peggiorare con il mese di assalti, con appunto l'interruzione del sistema il sistema fognario. E c'è un'intervista riportata su Man News, in cui si intervista si intervistano vari pescatori che mostrano i segni, gli eczemi, le malattie cutanee che stanno subendo a causa dell'inquinamento delle acque, e soprattutto appunto dei pesci che stanno morendo a causa e che quindi impediscono una pesca dignitosa. E quindi è evidente come le richieste della resistenza palestinese di estendere a 10 miglia nautiche il diritto di pesca e di navigazione per i pescatori è ovvio una necessità sempre più impellente, come quella anche di far finire l'assedio, perché continuare con l'assedio significa non poter ricostruire tutti i danni che abbiamo appena elencato, e che sono solo minima parte, quello che abbiamo elencato è solo minima parte di quello che è stato distrutto con questo mese di attacchi, e che è andato a essere distrutto con i 7 anni di assedio. In tutto questo interrompiamo un attimo per fare gli auguri a Damiano, che è arrivato in trasmissione. Tanti auguri, Damiano, per i tuoi 12 anni. E quindi appunto sono grandi dirette, è il bello della diretta su Radio Default. E continuiamo con buone notizie, tra virgolette, perché in tutto questo l'entità sionista ha così la coscienza pulita da aver vietato l'ingresso all'interno della Striscia di Gaza, proprio oggi, delle organizzazioni che monitorano i diritti umani. Nello specifico il giornale ebraico Haaretz ha dichiarato che appunto sono state rifiutate le richieste di accesso alla striscia da parte di Amnesty International e Human Rights Watch, che avevano richiesto di poter entrare per documentare le devastazioni all'interno di Gaza ed esaminare le tipologie di armi utilizzate dall'esercito sionista, ma l'esercito israeliano ha informato i responsabili di queste due organizzazioni che il valico di Beit Hanun Eretz, cioè quel valico nella parte settentrionale della striscia, è chiuso a causa dell'offensiva, e che quindi chi si occupa di diritti umani non può andare a monitorare se i diritti umani stanno venendo violati in una zona di guerra. Noi ovviamente lo sappiamo che stanno venendo violati, non vengono violati da un mese, bensì dai 7 anni dell'assedio, ma e ancor prima in questi 66 anni di occupazione. Ma insomma, è anche il caso che insomma questi signori dei diritti umani vadano a documentare quello che sta succedendo. Agenzie che non possono entrare dal valico di Rafah in quanto sono state bandite dal governo egiziano dal 2006 per quanto riguarda Human Rights Watch e dal 2012 per quanto riguarda Amnesty. E questo forse è anche una conseguenza di come queste organizzazioni stanno documentando i crimini commessi dall'esercito egiziano attualmente al potere contro i propri cittadini. E quindi ci prendiamo un'altra pausa musicale e ci risentiamo fra 7 minuti per andare sugli altri aggiornamenti regionali. العلم الأحمر لاح لاح لاح من رام الله للشياح الله الله جبهاوي وبإيده سلاح سلاح سلاح جيش العامل والفلاح الله الله لاح العلم الأحمر لاح نهج الثور السليم هيك علمنا الحكيم عن نهج الثور السليم حيوا حكيم السلام حيوا حكيم السلام أمين الجبهة الشعبية لاح العلم الأحمر الشعبية راح العلم الأحمر لا لا لا من رام الله للشياح الله الله جبهة وإيد سلاح سلاح سلاح جيش العامل والفلاح الله الله الهدف في كل مكان هيك علمنا غسان والهدف في كل مكان حيوا غسان السلام حيوا غسان السلام أديب الجبهة الشعبية ولاح العلم الأحمر لا لا طيارة للجميع هيك علمنا وديع والطيارة للجميع حيوا وديع السلام حيوا وديع السلام صقر الجبهة الشعبية ولاح العلم الأحمر لا لا مستعمر دمر أوكارا هيك علمنا جبارا مستعمر دمر أوكارا حيوا جبار السلام حيوا جبار السلام شهيد الجبهة الشعبية ولاح العلم الأحمر لا عصور العملاء عصر هيك علمنا النسر عصور العملاء عصر حيوا معين المصري حيوا معين المصري نسر الجبهة الشعبية ولاح العلم الأحمر لا لا لا من رام الله للشيا جبهاوي وفي ايده سلاح سلاح جيش العامل والفلاح الله الله. E ritorniamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento e analisi sulla repressione sionista in Palestina, puntate speciali che non vanno in vacanza. E dopo aver parlato della situazione di Gaza, spostiamoci sugli aggiornamenti regionali. Di fatto ricordiamoci che questo è il secondo mese di repressione che subisce la Palestina, di cui soltanto gli ultimi 30-40 giorni sono stati di bombardamenti sulla striscia, ma già da prima con il sequestro, con la cattura e l'abbattimento di tre coloni sionisti dalla colonia di Gush Etzion da parte di alcuni irregolari della resistenza palestinese, si era iniziata una campagna repressiva che in quel primo mese ha colpito prevalentemente la West Bank occupata, con un'impennata con l'arresto di oltre 1000 persone e anche in questo mese di bombardamenti sulla striscia, non la repressione sulla West Bank, anche se è passata un po' più sottotono a livello mediatico, ha comunque tenuto, è comunque continuata e soprattutto parliamo di Al-Quds, Gerusalemme, dove a seguito del brutale assassinio di Muhammad Abu Khudair, un giovane sedicenne che è stato rapito e torturato e bruciato vivo da tre nazisti sionisti, sono si è arrivati a, a sono arrestati oltre 600 gerosolimitani. Ricordiamo omicidio di Muhammad Abu Khodeir, che ha visto ha visto come responsabili tre coloni che sono stati identificati, arrestati e che sono stati rilasciati in attesa di giudizio. Qua ovviamente vediamo sempre il doppio standard della giustizia sionista, dove se lanci le pietre per difendere la tua terra finisci in carcere anche per 3 anni, e mentre questi qua, che sono rei confessi di aver torturato vivo un ragazzino, sono a piede libero, magari in attesa di prendersi un aereo per tornarsene in Texas, in Polonia o in Italia. Insomma, Gerusalemme ha visto questi oltre 600 arresti, prevalentemente a seguito delle grandi manifestazioni che si sono tenute per protestare contro l'assassinio di Abu Khodeir, si è arrivati a talmente tanti arrestati che il centro di detenzione di Lod è ormai sovraffollato e non può più operare normalmente. Invece una buona notizia che viene dalla West Bank è che a seguito appunto di questi bombardamenti è partita la campagna Sostieni la tua occupazione. Un titolo ironico per una serie di azioni di boicottaggio afferenti alla campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Prendiamo la notizia dall'emittente qatariota Al Jazeera, secondo cui appunto in questo fine settimana tanti gruppi di attivisti palestinesi hanno inondato i mercati e i supermercati palestinesi della West Bank per etichettare i prodotti israeliani. Appunto per questo si chiama così la campagna Sostieni la tua occupazione, perché ogni prodotto acquistato va di fatto a rimpolpare le casse dell'esercito sionista. Ricordiamo che secondo i dati economici, il mercato interno palestinese è profondamente collegato a quello sionista, e l'86,5% delle esportazioni palestinesi vanno in Israele, mentre circa il 65% dei prodotti importati dai palestinesi viene da Israele, e questo significa circa 300 milioni di dollari di beni. Ovviamente la campagna di boicottaggio non può essere non avrà effetti immediati, almeno secondo il professor Abu Bakr, un economista dell'Università di Nablus. Gli effetti principali si vedranno sul lungo periodo, ma l'avvio di questa campagna è molto importante, perché permetterà, oltre a non finanziare l'esercito o a finanziare l'occupazione sionista, porterà anche a una crescita del mercato interno e a un aumento dei posti di lavoro, che ricordiamo la disoccupazione essere delle grandi bestie nere della popolazione palestinese, della striscia di Gaza in maggior percentuale, ma anche e soprattutto nella West Bank e tendenzialmente nei campi profughi. Quindi numerose catene di supermercati stanno sostituendo i prodotti israeliani, lasciando magari vuoti gli scaffali, dicendo con dei cartelli che dicono che gli scaffali sono vuoti perché abbiamo rimosso i prodotti israeliani. Gaza è vittoriosa. Almeno questa è la foto che arriva da un supermercato di Ramallah. Altri sono stati sostituiti, altri appunto che non sono stati sostituiti vengono etichettati e segnalati dagli attivisti palestinesi. Quindi salutiamo con gioia l'avvio della campagna BDS anche in West Bank. E ora l'ultima notizia regionale riguarda i territori occupati nel 1948. ovvero la cosiddetta Israele, dove si è tenuta una simpatica manifestazione che ricorda la Vandea, la Vandea settecentesca francese, in quanto si è tenuta questa manifestazione di fronte ad un matrimonio. Perché degli estremisti ebrei dovrebbero fare una manifestazione dinanzi a un matrimonio? Perché gli sposi sono due tizi, sono un uomo, un palestinese, Mahmoud Mansour, e la sua neomoglie, la sua nuova sposa, che è un'ebrea convertita all'Islam per potersi sposare con l'uomo che ama. Ricordiamo che all'interno della cosiddetta unica democrazia del Medio Oriente non viene riconosciuto il matrimonio civile e quindi ci si può sposare solo tra membri della stessa religione, e quindi la moglie di Mahmoud Mansour è stata costretta per sposarsi a convertirsi all'Islam, è stata costretta dalle leggi israeliane, e i membri di un gruppo di estrema destra ebraico che si chiama Leava, che è un gruppo che si sta opponendo ai matrimoni misti tra ebrei e non ebrei, ha indetto questa manifestazione che è terminata poi con l'arresto di quattro persone. Mansour aveva provato a ricorrere al tribunale per evitare questa manifestazione. Il tribunale ha dichiarato che la manifestazione si poteva tenere. Per fortuna si è tenuta anche una piccola contromanifestazione di manifestanti di sinistra che hanno dato il loro sostegno alla coppia, a Mansour e a Morel Malka, cioè sua moglie, e quindi questo qua è un esempio di come la società israeliana continui a slittare a destra e di come è allucinante poter pensare ancora nel 2014 di poter parlare di uno Stato ebraico, cioè di uno Stato fondato su una base religiosa, e quindi forse sarebbe il caso di cominciare a dire i sostenitori di Israele nel mondo, che coloro che parlano di Israele come unico Stato democratico in Medio Oriente dovrebbero forse cominciare a ragionare di quanto possa essere democratico uno Stato confessionale, di quanto forse potrebbe essere più democratico uno Stato laico per tutti i suoi cittadini, a prescindere dalla religione, dall'etnia o dal proprio ateismo. Magari uno Stato che vada dal fiume Giordano fino al Mar Mediterraneo e che veda al suo interno anche quei 6 milioni di profughi palestinesi che vivono al di fuori della cosiddetta Israele, che hanno tutto il diritto dal 1948 di tornarci a vivere. Vi lasciamo con un ultimo stacco musicale e poi ritorniamo con gli aggiornamenti internazionali. اسمه عريشي ظاهر منقوش بشعلة نار، اسمه عريشي ظاهر منقوش بشعلة نار، هالقادي بالمناضل كان فاري هالمغوار، ابن الجبهة الشعبي قاد الثورة بإصرار، ابن الجبهة الشعبي قاد الثورة بإصرار، قلمه رمز الحرية وهداية للثوار. اسمه عريشي ظاهر منقوش بشعلة نار، اسمه عريشي ظاهر منقوش بشعلة نار، هالقادي بالمناضل كان فاري هالمغوار. عريشي ظاهر منقوش بشعل النار، اسمه عريشي ظاهر منقوش بشعل النار، هالقادي بالمناضل كان فاري هالمغوار. مرحى يا ابني المخيم يا صامد يا جبار،

sono vietati i rapporti economici, culturali e via dicendo, con tutte le entità, gli enti economici, le università e via dicendo, che hanno la loro sede nelle colonie illegali secondo il diritto internazionale, cioè quelle presenti in West Bank. E quindi stanno pian piano andando avanti dopo le mezze vittorie su il programma Horizon 2020. È stato annunciato proprio oggi che Israele cesserà l'esportazione in Europa del proprio pollame e dei propri prodotti caseari, che appunto provengono dalle colonie, quindi la maggior parte della produzione avicola e casearia. La motivazione ufficiale è che l'Unione Europea non riconosce più l'autorità delle ispezioni sanitarie, delle ispezioni veterinarie israeliane per approvare dei prodotti che appunto arrivano dalla West Bank, dagli insediamenti dalle colonie della West Bank, e quindi ora si sta cercando di capire come trovare un metodo per marchiare i prodotti che vengono dalle colonie. Ovviamente questa è una vittoria a metà. Ricordiamoci sempre che l'economia delle colonie è strettamente interconnessa all'economia di quelle altre colonie, che sono quelle della cosiddetta che stanno all'interno della cosiddetta Israele. E ricordiamoci inoltre che entrambe sono un'occupazione, ma cambia soltanto la data da cui è iniziata. Quella dentro Israele è iniziata nel 48, quella in West Bank è iniziata nel 67, ma diciamo che comunque ben venga questo mezzo passo davanti al boicott, a favore del boicottaggio. Basta ricordarsi sempre che appunto l'occupazione è una, non bisogna distinguere tra 67 e 48, e così come il diritto dei palestinesi a vivere sulla loro terra, non solo quella occupata nel 67, ma anche e soprattutto quella occupata nel 1948. Altra notizia positiva che riprendiamo da Electronic Intifada è la vittoria che gli attivisti di Oakland, della Bay Area, hanno ottenuto contro i cargo della ZIM. La ZIM è un servizio di trasporto, è una compagnia che si occupa di servizi di trasporto integrati, è la compagnia, diciamo, potremmo dire semi di bandiera israeliana, ed è appunto una delle più grandi compagnie marittime del mondo, che tra l'altro ha una sede anche nell'italiana Livorno. Venerdì notte il sistema di monitoraggio delle navi ha mostrato che un portacontainer Zimpireus si stava avvicinando al porto di Oakland, e gli attivisti per la Palestina e i lavoratori del porto di Oakland hanno fatto in modo di evitare l'attracco della nave, che quindi è rimasta a largo senza poter attraccare. Il 16 agosto, per la seconda volta, si è riusciti a impedire questo attracco con un comunicato di giubilo degli organizzatori che stavano guidando una manifestazione di migliaia di manifestanti che stavano appunto marciando verso il porto per impedire materialmente questo attracco. Questo significa gravi danni economici per la ZIM, perché ogni ritardo nella consegna significa ovviamente multe da pagare per la compagnia, e in tutto questo i manifestanti, mentre facevano la loro manifestazione verso il porto di Oakland, oltre a innalzare slogan per la liberazione della Palestina, hanno lanciato dei cori in sostegno dei manifestanti della città di Ferguson nel Missouri, che sta vedendo delle rivolte che sono iniziate dopo che il 9 agosto scorso è stato ucciso un cittadino afroamericano, e che stanno appunto vedendo manifestazioni e scontri giornalieri. E oggi il governatore del Missouri ha dichiarato di voler utilizzare la Guardia Nazionale. Solidarietà alla popolazione di Ferguson, che non arriva soltanto dagli attivisti californiani, ma anche dai palestinesi, che via Twitter stanno inviando ai manifestanti di Ferguson dei consigli utili per reagire contro i lacrimogeni della polizia, che sono gli stessi lacrimogeni che vengono sparati contro le loro manifestazioni in West Bank. E quindi su questo c'è un interessante articolo su Al Jazeera, sullo stream di Al Jazeera, e noi appunto invitiamo a leggerlo e ricordare che per fortuna che la solidarietà è un'arma e che per fortuna i popoli oppressi, almeno in questi giorni, la stanno utilizzando. E andiamo all'ultima notizia internazionale, che viene direttamente dall'Olanda, dall'AIA, dove un 91enne olandese, Henk Zanoli, ha restituito la medaglia di Giusto fra le Nazioni all'ambasciatore israeliano. La medaglia di Giusto fra le Nazioni è quella medaglia che Israele dà ai gentili, cioè ai non ebrei, che si sono distinti per aver difeso la popolazione ebraica vittima del genocidio durante la Seconda Guerra Mondiale. Il 91enne in questione, la sua famiglia, aveva salvato un ragazzo ebreo dalla deportazione in campo di concentramento da parte dei nazisti, oltretutto famiglia che aveva dato anche il suo tributo di martirio alla resistenza olandese contro l'occupazione nazifascista. Henk Zanoli ha dichiarato sabato scorso che interrompiamo anche qua il bello della diretta. Tanti auguri al buon Nisciante. Il suo è domani, quindi ci rimangiamo tutti gli auguri, anche se glieli facciamo ugualmente perché non siamo superstiziosi. Torniamo alla nostra notizia, dove appunto Zanoli ha maturato questa sua volontà di restituire la medaglia concessagli dagli israeliani di Giusto fra le Nazioni a seguito della morte nel campo profughi di Al-Bureij di gran parte della sua famiglia, di alcuni suoi bisnipoti e dei suoi nipoti. L'ambasciata sionista ha confermato di essere a conoscenza di questo fatto, ma ha evitato di fare qualsiasi altro commento. Noi chiudiamo qua per oggi. Noi ricordiamo che Radio Cufia andrà avanti in edizione speciale finché dura l'offensiva contro Gaza, che a quanto pare ricomincerà dalla mezzanotte di oggi, a meno che non ci siano dei grossi ribaltamenti diplomatici al Cairo, cosa che a quanto leggiamo dalle agenzie non ci pare proprio. I comitati di resistenza popolare hanno dichiarato che la smilitarizzazione della striscia di Gaza è fuori discussione. Quindi appunto continuano, a quanto leggiamo da Ma'an, è stato appena pubblicato proprio un quarto d'ora fa, che i negoziati continuano appunto fino alla mezzanotte. Noi vi ricordiamo che il prossimo appuntamento sarà il prossimo giovedì pomeriggio, sempre con gli aggiornamenti, senza ferie, senza vacanze dalla Palestina occupata. Questa è Radio Default, la radio locale a vocazione universale, E noi vi auguriamo ovviamente buona libertà a tutti e a tutti, ai castelli romani in Italia, in Palestina e in tutto il mondo. E vi lasciamo con la nostra nuova sigla di chiusura. Udrub Udrub Tel Aviv, colpire, colpire Tel Aviv. Con un abbraccio a tutti i palestinesi che stanno subendo la repressione sionista e un abbraccio ancora più caloroso a tutti i palestinesi che attualmente stanno lottando contro la colonizzazione sionista.